Bocciato da quel banco per troppe note. Nella vita ciò che conta sono le banconote. E mentre annoto sto destino sul mio cammino, penso a ciò che ho fatto e ritornerei bambino. Rifarei quel che ho fatto perché sono pazzo. Lo rifarei mille volte ancora, non sono sazio. Ma passano le ore, mi passano i minuti, e tutti gli infami li ho fatti stare muti. In braccio i genitori erano i giorni migliori, ora in braccio i traditori, i giorni sono errori. Non chiedo nulla di più, ho avuto poco, ho avuto tanto. Ho fatto ciò che ho fatto, non sono mica un santo. Ho detto ciò che ho detto, ma è sempre davanti. Chi ti infama è un infame come tutti gli altri. Così è la gente, prima c'è e poi scompare. Da quel giorno non ti ho più vista tornare. Lo sai quando ti penso, fuori adesso inverno, solo per colmare il freddo che io dentro. Mi svesto dai pensieri, ci vediamo a letto, fuori, per le volte che ti penso. Lo sai quando ti penso, fuori adesso inverno, solo per colmare il freddo che io dentro. Mi svesto dai pensieri, ci vediamo a letto, fuori, per le volte che ti penso. E ora che c'ho sto mic, rimo nella canzone. Il tuo sparlare rimane immaginazione. Tanto sparli lo stesso, anche senza un nesso. Fammi i complimenti, rimani sempre un gesto. Tanto siete tutti uguali, vi volete tutti bene. Ve lo dite così tanto che ne ho le palle piene. Ve lo dite così tanto che non siete ancora stanchi. Il vero bene è dimostrarlo, lo scrivergli mi manchi. Il vero consiglio a volte è seguire l'immaginazione. Quando ascolti gli altri, poi sfrutti le persone. Ho sempre ascoltato Dio, il cuore e l'anima. Ma non è cambiato un cazzo, è sempre scesa quella lacrima. Non cambierà mai nulla se non ti sforzi di farlo. Il suo paese, ogni sogno poi rimane astratto. Bocciato da tutto quello che mi circondava. Come lei che c'era sempre, ma poi l'ho vista mentre andava. Lo sai quando ti penso, fuori adesso inverno, solo per colmare il freddo che io dentro. Mi svesto dai pensieri, ci vediamo a letto, fuori, per le volte che ti penso. Lo sai quando ti penso, fuori adesso inverno, solo per colmare il freddo che io dentro. Mi svesto dai pensieri, ci vediamo a letto, fuori, per le volte che ti penso. A volte ho la convinzione di giorni migliori, ma mi ricredo davanti, ho solo traditori. Parlavo della vita in generale. Quando penso al cash mi si abbassa il morale. Vado avanti con la mia rabbia e lo stupore. Tra queste vie cammino per un futuro migliore. Scambio una goccia con un bicchiere pieno, perché ho avuto sempre poco ma cammino sempre fiero. Sto sistema piccoli come parti di sodio. I ladri, le troie saranno sempre sul podio. Noi lavoratori onesti avremo sempre poco. Ligano i nostri soldi, ficca più di Rocco. Tutto sballato, mi sono fatto i viaggi migliori. Tutto sobrio, poi ho commesso i peggiori errori. La vita è bastarda con il nostro destino, ma ci credo sempre, non mollo mai per il mio cammino. Lo sai quando ti penso, fuori adesso inverno, solo per colmare il freddo che io dentro. Mi svesto dai pensieri, ci vediamo a letto, fuori, per le volte che ti penso. Lo sai quando ti penso, fuori adesso inverno, solo per colmare il freddo che io dentro. Mi svesto dai pensieri, ci vediamo a letto, fuori, per le volte che ti penso.